24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Buongiorno, il Made in Italy dovrebbe essere in parte il fiore all'occhiello della nostra identità e delle nostre esportazioni. In realtà, in un'Europa a guida tedesca è difficile affermare questo principio e far passare la necessità delle etichettature di origine Made in. Si puntava sul semestre europeo a guida italiana, invece non è successo niente. La responsabile per il marchio Made in Italy è la vicepresidente per l'Europa di Confindustria, Lisa Ferrarini. Sentiamo cosa ci diceva lo scorso dicembre. Noi la settimana prossima ci sarà il Consiglio Competitività il 4 di dicembre, dove da lì o se ne viene fuori o se ne viene fuori. 4 dicembre, se il presidente del Consiglio non mi porta a casa impacchettato il Made in, io e lei il 5 di dicembre ci vediamo e qui viene fuori un casino mondiale. Lisa Ferrarini, siamo al 5 dicembre, ma non è capitato nulla. Adesso il casino che aveva promesso quale sarà? Che dispiacere, oggi è una giornata, tremenda. Niente, non è successo niente. No, è successo di peggio, è successo che è stato posticipato il problema, la discussione alla presidenza eletta. Come sempre. Quindi vuol dire buttarla violentemente nelle ortiche. Ecco, adesso è il 29 maggio, dottoressa Ferrarini, la presidenza lettone c'è, a Bruxelles si è tenuto il Consiglio di competitività, appunto sotto la presidenza lettone, non è capitato niente neanche questa volta, così? No, sono egoismi violenti da parte della Germania che direi che rendono estremamente difficile lavorare insieme e soprattutto pensare a una base industriale europea solida. Ma quindi sul Made in c'è una dittatura del nord Europa che non fa passare neanche uno spillo, parliamoci chiaro. La cosa incredibile è che proprio questa Europa resta divisa in tra due. Chi vuole sostenere il manifatturiero e chi invece crede che la crescita economica e l'occupazione debbano provenire direttamente e interamente da un commercio extracelle. Insomma, ed i paesi del nord non lo vogliono. Dobbiamo prendere atto del fatto che l'Europa guida tedesca non vuole questa definizione, quindi continuiamo a non contare niente. Guardi, questa non è l'Europa che noi vorremmo, non è l'Europa nella quale ci identifichiamo. Io glielo dico veramente con estrema amarezza, perché siamo europeisti convinti, però... Sì, ma di un'Europa che non c'è, siamo europeisti di un'Europa che non c'è. Ma dipendiamo sempre sistematicamente dagli umori della Germania, una volta una cosa, una volta l'altra, una volta su, una volta giù, dottoressa, e noi siamo sempre qui. Dottoressa, però delle imprese italiane, ad aprile del 2003 che aspettano, sì, l'etichetta, aprile 2003. Dottoressa Ferrarini, il governo italiano non sa farsi ascoltare un'Europa, no, questo guardi, è il dato. Allora, Calenda, ieri noi eravamo rappresentati dal vice Ho ministro visto Calenda, che le garantisco che ieri si è battuto veramente. Sì, sì, ma il risultato non c'è. Ma sa, quando lei fa la guerra contro queste montagne qui che non si spostano di niente, io... guardi, a questo punto non so più cosa dire, perché ecco, ma lei col stata un'apertura, allora ieri c'è stata un'apertura positiva della Polonia e questa è l'unica nota positiva. Benissimo, benissimo. Senta, lei col ministro Guidi ha fatto baruffa molto, a che punto è il vostro scontro? Finito? No, è finito? Assolutamente, sì. Ministro, ci siamo visti ieri alla nostra assemblea annuale, il ministro anche ieri ci ha detto che lo sforzo del governo è massimo e su questo ieri abbiamo visto. Senta, allora mettiamola così, qual è il prossimo appuntamento per tentare di parlare di Made in in modo efficiente? Guarda, sa cos'è il prossimo appuntamento? Bisogna che il nostro premier prenda sul telefono e chiami la cancelliera Merkel. Va bene. Non ci sono altre soluzioni. Facciamo così, quando chiama la cancelliera Merkel. Noi abbiamo un premier molto decisionista, determinato. Molto determinato, benissimo. Bravo. allora adesso che ci faccia un gran piacere, perché dal 2003 che l'aspettiamo. Benissimo, allora senta, facciamo così, quando sa che gli ha telefonato, mi telefona e ne parliamo. E allora io e lei va bene? Aspettare un pochino, cosa dice? Va bene, grazie dottoressa Ferrarini, arrivederci. Nuovo, arrivederci. Numero verde 800240024, numero dell'SMS 349-238-6666. Dottore, è a un passo dalla morte. Controlla. Avanti, fa presto. Controllate la pressione. Qual è la situazione? Ah, sentiamo. Niente polso, non c'è più polso. Allora, cosa c'è? Di che si tratta? Questa è una strana cosa. La sua temperatura corporea è sotto i 27 gradi e il suo cuore ha cessato di battere. Beh, poteva andare peggio. È rimasto sotto le acque del naviglio per 42 minuti e quando è stato tirato fuori le sue condizioni erano disperate dopo essere stato in arresto cardiaco non si sa per quanto tempo. Ma i medici rianimatori del San Raffaele di Milano lo hanno salvato grazie a una procedura estrema di assistenza meccanica con circolazione extracorporea. E ora Michael, 14 anni, ha sorprendentemente recuperato. Alberto Zangrillo, direttore dell'unità operativa di anestesia, rianimazione cardiotoracovascolare del San Raffaele, direttore della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione. Professor Zangrillo, il mese scorso il corpo di Michel, un ragazzo di 14 anni, è stato recuperato dopo essere stato sott'acqua 42 minuti. Non vi siete dati per vinti e l'avete letteralmente riportato alla vita. Ma è scienza o un miracolo? Scienza, vogliamo rimanere nell'ambito della scienza. Ma la temperatura corporea di Michel era di 29 gradi, se ho capito bene, il cuore era fermo. Sì. Ma cosa vi ha spinto a tentare l'impossibile? Ma guardi, allora abbiamo pensato che la temperatura ambientale, quindi quella dell'acqua, per quanto non sufficiente, potesse costituire comunque un fattore protettivo, soprattutto del cervello, e poi la giovane età. La giovane età che rendeva il tutto prezioso e comunque un individuo adulto giovane che avrebbe potuto reagire. Comunque eravamo nell'ambito della scienza, però in un contesto irrazionale. 42 minuti è un primato assoluto. Ma diciamo che con questi parametri, quindi soprattutto per quanto riguarda quello che viene definito cosiddetto submersion time, quindi il tempo per quanto il corpo è rimasto sott'acqua, e la temperatura ambientale, quindi dell'acqua, direi di sì. Ma l'esperienza dei grandi apneisti, per esempio, suggerisce qualcosa? Ma suggerisce che in questi casi evidentemente la preparazione atletica, che determina anche delle alterazioni della capacità funzionale toracica e respiratoria, porta appunto a dei limiti che comunque sono, come dire, definiti in assetto costante, quindi in particolari condizioni, sicuramente non quelle traumatiche di un evento accidentale, quello di cui stiamo parlando. Certo, ma voi, professor Zangrillo, avete applicato una procedura estrema? Quale? Diciamo che è una procedura estrema per quanto riguarda la logica che l'ha guidata, estrema in quanto non all'interno di canoni che sono quelli dettati dai paradigmi appunto della scienza ufficiale, che definiscono che dopo un periodo di 20-25 minuti a una temperatura dell'acqua superiore ai 5 gradi non esistono chance di un buon outcome neurologico. Quindi in questo senso è estrema, convenzionale nel senso che comunque è una terapia che viene applicata modificando il bypass, non entriamo nella tecnica, no, per sostituire la funzione cardiaca o quella polmonare. Quindi per esempio per sostituire un cuore temporaneamente non funzionante, per esempio in attesa di un trapianto o di un impianto di cuore artificiale, oppure un polmone che è completamente disfunzionante per una gravissima polmonite. Ecco, ma come sta adesso Michel? Nicky, come ti ha chiesto di chiamarlo, sta veramente bene e soprattutto, e questo sicuramente non può essere correlato con l'esito che abbiamo prodotto ed ottenuto, è un ragazzo di una vivacità intellettuale sorprendente, sicuramente dimostra più degli anni che ha e soprattutto se consideriamo il trauma gravissimo che ha subito dal punto di vista neurologico e anche il contesto in cui si trova, perché un reparto di terapia intensiva è un po' come essere nella cella, certo, di un carcere. Ecco. Ma lui ha consapevolezza di quello che gli è capitato? Lui ha piena consapevolezza e in questo è evitato molto anche dai genitori che lo hanno sempre assistito nel modo migliore, evidentemente sviluppando con lui un rapporto empatico che ha portato un risultato straordinario anche da questo punto di vista. Ma recupererà completamente? Io credo assolutamente di sì, sono certo di sì. Ecco, ma esistono precedenti nella casistica scientifica di casi come questi? Guardi, ho proprio letto, perché è con una certa soddisfazione che appunto siamo stati citati anche da Time, e la redattrice dell'articolo fa riferimento al fatto che esistono casi di sopravvivenza soprattutto in giovani adulti, però evidentemente appunto senza soffermarsi su quelle che sono quelle caratteristiche ambientali che condizioni. Dicevo prima. Ecco. Per cui adesso, prima di definirla, come dire, la prima assoluta, no? La prima, certo, dell'Eiger in invernale sulla parete nord, noi ci andiamo cauti, perché appunto non è che vogliamo fare del sensazionalismo. No, no, però certo, tutti coloro con cui ci siamo confrontati, con cui abbiamo parlato, certo, in queste condizioni ha una caratteristica di eccezionalità assoluta, sì, eccezionalità e imprevedibilità. Ecco, ma professor Zangrillo, ma questo risultato in qualche modo porta a mettere in discussione molte certezze acquisite, insomma, nel tracciare scientificamente il confine tra la vita e la morte, per esempio? Ma guardi, lei ha toccato il punto fondamentale, no? Perché alla fine le mie riflessioni portano e vogliono portare proprio a quello. Il cervello, dal punto di vista nostro, quindi dal punto di vista neurofisiologico, neuropatologico, è un grosso punto interrogativo. Per cui quello che abbiamo ottenuto sicuramente ci invita a considerare che sarebbe opportuno sviluppare un dibattito che evidentemente rimanga sempre in uno stretto e rigoroso ambito scientifico, ma porti a considerare che esistono delle condizioni in cui appunto questa imprevedibilità di risposta merita di essere considerata, e quindi una variante inserisce autentica, insomma. Io direi proprio di sì. Perché ricordiamoci che il tessuto cerebrale, il tessuto nervoso centrale, è un qualcosa in continua evoluzione, certo, è un qualcosa di assolutamente dinamico e di poco studiato rispetto soprattutto ad altri organi e apparati. Quindi nel caso di trapianti o di coma, stabilire quando è arrivato il momento di staccare la spina diventa sempre più complicato? No, nel senso che esistono comunque dei parametri assolutamente obiettivi e certi per definire la morte cerebrale. Questo non viene assolutamente intaccato. Noi siamo invece in un ambito in cui appunto questi parametri non sono facilmente deducibili, e allora l'attesa è ovviamente in un limite di tempo accettabile, e quindi non avere ansia e produrre il massimo sforzo per sostenere la funzionalità degli altri organi è fondamentale. Ecco, professor Zangrillo, lei è anestesista anche, no? Si può considerare l'anestesia come un viaggio nell'assenza, cioè una temporanea sospensione dell'esistenza? Ma guardi, l'anestesia, diciamo che è un piccolo capitolo di quello straordinario mondo che è la disciplina di cui mi occupo, che appunto l'anestesia è la terapia intensiva. Io non temo di essere smentito nel definire l'intensivista in assoluto il medico più completo, perché deve avere delle competenze assolutamente multidisciplinari per operare correttamente. Certo, l'anestesia, quindi quel piccolo capitolo del grande libro, può essere definito come l'ha definito lei. Senta, professore, ancora una cosa. Nel caso di Miki, come mi ha detto che vuole essere chiamato, lei stesso ha affermato che se avesse seguito pedissequamente il protocollo di cura, il ragazzo sarebbe morto. Allora va rivisto il protocollo? Assolutamente sì, sono assolutamente certo. Mi spiego meglio. Se io o i miei collaboratori, perché poi in realtà la prima telefonata è arrivato un mio collaboratore, avesse risposto ci dispiace, lo sapete anche voi, che siamo ben oltre il protocollo, per cui purtroppo non c'è nulla da fare, Miki sarebbe morto da un mese. Di questo sono assolutamente certo. In questo senso, Miki, ma lo dico solo per farci capire, ci deve la vita, però diciamo che la mission di Miki è un pochettino a più lungo termine, perché ci deve obbligare appunto a essere assolutamente meno aderenti a quelli che sono dei protocolli che evidentemente non rispondono più alla realtà. Anche perché i protocolli li ha scritti qualcuno e possono essere poi aggiornati, aggiustati. La medicina è in continua evoluzione, soprattutto perché le nuove tecnologie ci consentono di... Pensi che Miki, perché questo poi non è stato particolarmente stressato, dopo essere estratto dall'acqua, quindi 42 minuti prima di arrivare a noi, è stato sottoposto ad una pratica di rianimazione brillantemente eseguita dal personale 118 che è perdurata per più di un'ora. Allora, tutti tutte le regole. Sono saltate tutte le regole, insomma. Sono completamente saltate, perché guardi, adesso evidentemente Michi, speriamo che si manifesterà lui nei prossimi giorni quando lo vorrà, però per come appunto, per come si è svolta tutta la vicenda e per quello che è l'attuale esito, è veramente una cosa di straordinario. Certo, ma che cosa avete cambiato di radicalmente diverso del protocollo? Ma soprattutto non abbiamo rispettato i tempi, potevamo assolutamente essere accusati, allora posso dirlo con tranquillità perché ne ho ottenuto il consenso. Il mio primo approccio con la mamma è stato drammatico, acceso e molto conflittuale. La mamma era convinta che Michi fosse morto perché ha partecipato a una buona fase della rianimazione sul posto, per cui quando è arrivata nell'ospedale dove lavoro, a San Raffaele, mezz'ora dopo Michi, che è arrivato con l'elicottero e quindi prima, la mamma mi ha assalito dicendo per quale motivo non lasciavo stare suo figlio che era morto un'ora prima. Ecco, Pietrangelo dice, professor, è un caso veramente interessante, perché dice il professor Zangrillo, Michi ci deve la vita, ma forse tanti noi devono la vita a Michi per quello che ha dimostrato e per come saranno cambiati i protocolli. E però io vorrei ritornare alla definizione che hai dato tu, quella dell'esperienza dell'assenza, perché in realtà è anche un campo dove la scienza riesce ad attraversare il segreto. Ed è appunto quell'esperienza di assenza che ha permesso di continuare gli studi e di fare esperienza proprio di qualcosa che non è soltanto il vissuto, ma anche, e neppure la speranza, ancora meglio, è proprio la certezza di attraversare una fase dove la vita attende da un agguato e ritorna. Esattamente così, Mario. È un tema affascinante, no? No, non ci sono dubbi. Viene fuori il mistero. Come tutti i misteri, ogni mistero ha bisogno in realtà di fede. Esatto. Quindi la scienza procede anche proprio così. Di certo non c'è una spiegazione, no? Mi è parso di capire questo. Ovviamente. Vabbè, intanto noi invece una spiegazione ce l'abbiamo per l'assenza presenza di Sara Tardelli, che qualche giorno è stata lontana perché non stava tanto bene, però noi non possiamo fare a meno di lei e quindi anche da casa le abbiamo chiesto di far sentire la sua voce. Però grazie alla scienza ci sono anch'io. Iniziamo dalla regia. Di ladri e di eroi che spesso si confondono nelle cronache che leggiamo. Ci sono ben due indagini, una svizzera e una dell'FBI, che hanno stanato alcuni dirigenti della FIFA con le mani nella marmellata. Ho dimenticato di dire che pare che avessero le mani nella marmellata, scusate. Ma qual è il principio del problema? È più o meno sempre lo stesso, cioè la classe dirigente del calcio ha degli interessi che non coincidono con quelli del calcio e vengono votati i dirigenti del calcio da chi rappresenta i calciatori. Ma chi rappresenta i calciatori non viene eletto dai calciatori, ma da altri dirigenti che solitamente non piacciono ai calciatori. E adesso allora che cosa capita? Capita che oggi i dirigenti del calcio devono votare chi sarà il futuro presidente della FIFA. Diciamo che i due candidati sono Blatter e il principe di Giordania, che è sostenuto dalla UEFA di Michel Platini. Oggi Tavecchio, il nostro presidente dirigente della Federazione Gioco Calcio, ha l'opportunità di votare come vorrebbero in realtà tanti uomini di calcio e che lo amano il calcio. E ha la possibilità appunto di votare contro Blatter, che bisogna ricordarlo, è stato l'uomo che ha sempre schifato invece il nostro di calcio, perfino quando nel 2006 abbiamo vinto i mondiali. E quindi io a Tavecchio oggi, che come ha dichiarato ieri la sua prima volta alla FIFA, dedico controvento, perché magari un soffio d'amore si infilerà tra le crepe del potere. Scenderai insomma Sara è tornata, mi sembra in piena forma. E questo ci fa un enorme piacere. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 gli sms ci hanno scritto dal 118 di infermieri che hanno partecipato a casi analoghi, simili a quello che abbiamo descritto di Michi. Ci fa piacere, è un lavoro davvero difficile fatto con tanto amore. Pubblicità. Mix 24. Angelo, mi sembra che cambia molto l'aria il venerdì in metropolitana. Eh sì, perché oggi in metropolitana mi sono smarrito nei miei pensieri e ho visto intorno a me le nuvole candide e ancora più candido il giglio borbonico. Ho visto infatti le loro maestà. C'era la tedeschina sui bastioni di Gaeta, poi i ragazzi dell'Annunziatella e poi accanto a me è sbucato un cirneco, il cane dell'Etna, seguito da altri cani da caccia, comandati dall'occhio attento e vigile di Ciccio Tumeo, che è l'organista presso la chiesa madre nel feudo di Salina, nonché guardia caccia dei principi del Gatto Pardo. Don Ciccio mi mostrò 100 onze stamattina, sicure come la morte, a garantire sempre il sostegno alla vita degli ultimi. Dopodiché Don Ciccio mi spiegò il senso della fedeltà al regno, mi parlò dei confini delle due Sicilie, mi parlò delle terre di lavoro e della bella scienza intorno a Carditello, quando d'improvviso, arrivando al termine della corsa, tutti i sovrani, tutti scesero dalle loro nuvole, la tedeschina scese dai bastioni di Gaeta e si inginocchiarono davanti a Don Ciccio Tumeo, in omaggio alla fedeltà. Ragion per cui sarà pure il 2 giugno, ma uno solo è il grido: viva un re! Si è portato avanti. Ce n'è per tutti, sì, sì, chiaro, non c'è dubbio. Lo poteva denunciare. La musica di Paesiello. Allora, dai, andiamo con la tua pentola e le tue bolle che ci illuminano, vabbè, Mario. Proviamo. Iniziamo con il capostipite, Elvis. Vi avverto, oggi sarà tutta una carrellata di pezzi classici della storia del rock. Va bene, d'altronde, e che cosa succede, Giovanni? Che i fari sono puntati sull'Atlantico e anche sul subcontinente indiano. Oggi escono infatti i dati del PIL degli Stati Uniti, del Brasile, dell'India, è uscito poco fa il Giappone, ho visto. Gli analisti non si aspettano buone cose dagli Stati Uniti, però io invece vediamo, dico. Mentre per l'India c'è una crescita che per loro è normale, 7% più, insomma, 7.3, un po' al di sotto delle aspettative. Secondo un report del Fondo Monetario, questa è la cosa interessante, speriamo si verifichi per mille motivi, l'India sarà presto l'economia con la crescita più veloce del mondo, non la più grande, la più veloce, ripeto. La Svizzera ha fatto un misero 0,2%, che gli economisti da quelle parti leggono come zero sostanzialmente. Per l'Italia non sono buone notizie, perché nei paesi dove si cresce molto, cioè Cina, India, perfino il Giappone, che fa comunque poco, più uno, non ci siamo proprio, quasi, ci siamo pochissimo. Siamo agganciati dunque all'export in Europa in particolare, e ahimè, nessuno lo dice, ma noi dipendiamo dalla Germania, questa è la verità. No, mi pare che lo diciamo tutti i giorni. Sì, lo diciamo però da una parte, dall'altra dobbiamo dire che dipendiamo dalla Germania, nel senso che se la Germania va bene, le imprese italiane ne beneficiano, certo, perché è il nostro principale partner commerciale. Ho visto adesso che le vendite al dettaglio hanno fatto più 1,7, che è un risultato importante perché era previsto un più 0,8. Sono tutti numeri dei quali non si temi dei quali non si è parlato in questi giorni di campagna elettorale. Lo segnalo perché secondo me il dibattito politico andrebbe arricchito di temi. Sì, è molto, esatto. È molto scarso. E intanto me. Io registro che i nostri ascoltatori sono stati felici del ritorno di Sara. Sta vedi. Bene, grande Sara, voce squillante, allegra. Sono in tanti che lo dicono e noi per primi. Salamino! Chi ha vinto nel duello televisivo, quello che c'è stato ieri tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi? Punto interrogativo. Chi ha vinto? Non si sono incontrati, ma sono stati intervistati da Nicola Porro a Virus e il duello è stato dato in differita. Ed è però già un gioco di icone, perché uno è più giovane, l'altro ha l'esperienza. Però uno è il generatore e l'altro è il generato. In questo voto, ha detto Berlusconi, potrebbero esserci sorprese. Il 6-1, che è stato il mantra di tutta questa campagna elettorale, il mantra immaginato da Matteo Renzi, perdendo solo il Veneto, potrebbe essere che cosa? Un 4-3. 4-3. Ecco, un 4-3, sempre con la destra che vince in Veneto, però anche in Campania e in Liguria. Però, Giovanni, faccio appello alla storia. Sempre ludi cartacei sono. La sostanza è tutta nella rappresentazione. E alla domanda iniziale, chi ha vinto nel confronto TV ieri tra il Cavaliere e il signor Renzi? La risposta, secondo me, non può che essere una sola, ed è questa. Silvio, tu devi tornare, questa volta non farti incastrare. Perché quando il signor Renzi mette le mani avanti e dice, lui mette le mani avanti e dice, la politica non si fa coi talk show, però va a sbracare e ovunque. Ma parlava di Landini, non di se stesso. Ha fatto la scena, una scena impressionante che secondo me forse supera perfino quella dell'incontro tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la regina Elisabetta. A meno che non sia un altro che va al suo posto, ai talk, che lui resta a governare. Tu dici che già siamo al... alla controfigura, quindi fa pure il miracolo della bilocazione. Un ologramma. C'è uno spot imbarazzante, che è quello che ha creato dopo la sua visita allo stabilimento. Come si dice? FCA oppure tutti in una volta? Come vuoi. FCA, va bene. Non cominciare con queste cose, che tanto lo sai. Dove c'era Marchionne al seguito degli operai che si improvvisano poeti. Ascoltate. Oggi forse per la prima volta sono contento perché faccio parte di questo cambiamento. Ma il cambiamento non deve essere solo strutturale, ma soprattutto mentale. Ci dobbiamo credere tutti fino in fondo se vogliamo esportare in tutto il mondo. Concludo dicendo che noi ci crediamo veramente, questo è l'inizio di Io sono presente. Fuori dalle righe concludo dicendo che la nostra realtà si fa sempre più evidente con la visita oggi di Renzi, il nostro presidente. Manca Buonanima di Ceausescu. Anche perché qua c'era il Canni, il padrone, che faceva le fotografie. Insomma, non c'è più lotta di classe. Ora c'è lo start-up. Ma siccome c'è la continuità tra Berlusconi e Renzi, qui Karl Marx mi torna utile, utilissimo. Addirittura, certo, perché però Karl Marx, ma riposa a Londra, lascialo in pace. Capovolgimento, la storia si ripete, perché se la prima è tragedia, la seconda volta è farsa. Invece nel rapporto tra Berlusconi e Renzi è questo il rapporto. Prima fu commedia, insomma, Goldoni puro. Con Renzi invece cosa diventa? Soliti idioti? Come amore, B come bruco, C come cavalletta, D dai gasso. Vabbè, vai con la bolla, Mario. Continua il tuo rock. Ma di nuovo? È diverso. Lui li confonde tutti, senti. Vabbè. Scusa, non è Smoke on the Water? Bravo. E non ti messo ieri? No. Allora? Io posso disquisire dei Deep Purple? con Pietrangelo Buttafuoco. No, infatti, basta non farlo. Vabbè, aggiungo solo un tassello alle cose che ha detto Sara Tardelli sulla questione Blatter. Sì. Allora, lui probabilmente oggi verrà rieletto, sì, in realtà, sì, e farà il suo quinto mandato. La cosa è molto surreale, come potete immaginare tutti, in mezzo a questo caos diplomatico, un vero caso mondiale. Insomma, lui probabilmente ce la farà. Credo che Tavecchio li voti contro, però. Credo che li voti a favore. Contro in che senso? Contro, cioè che voti con la UEFA. Sì, voti con la UEFA, l'ha detto. Quindi questo almeno c'è di buono. Voglio solo segnalare che il calcio ovviamente è un business colossale. Pazzesco. È il più grande veicolo pubblicitario del mondo, uno dei più efficaci. E beh, interessante però la reazione degli sponsor, in particolare di Visa, Coca-Cola, la stessa Nike, che ha anche qualche problema che emerge, diciamo, dall'inchiesta, pur non essendo ufficialmente indagata, per fortuna, di Nike. Insomma, Visa ha detto che rischia di ritirare la sua partecipazione e Coca-Cola ha fatto un comunicato molto duro. Gli altri sponsor sono tutti preoccupati, perché ovviamente non è che il calcio muore dopo questa cosa. Certo che no. Resta, anzi, un grandissimo veicolo pubblicitario. Forse torna ai calciatori e ai tifosi. Ecco, è la morale di questa cosa, se ne possiamo trarre una in questo momento, è che nessuno alla fine mette i soldi dove mancano gli ideali. Ci può essere un business colossale, ma se improvvisamente crolla un ideale, questa è una cosa, certo, positiva. E sai, diventa imbarazzante poi finanziarlo. Per cui noi speriamo che proprio dagli sponsor che mettono i soldi, che mettono la loro faccia, che mettono il loro marchio, si avvii un tentativo di riformare la FIFA, che ne ha un grande bisogno. E vedremo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Facciamo ancora il canzoniere e poi andiamo in pubblicità, se c'è, se no andiamo in pubblicità subito. Ti sentivo parlare da solo in una lingua simile alla mia. Mi piaci, prendimi. Sono figlia di Calliope. Non credere alle favole inventate su di noi. Non uccidiamo nessuno. Amiamo soltanto. Pubblicità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Mix 24. Bellissimo pezzo degli Yes, questo, storico, con una voce meravigliosa, vediamo solo un po'. Owner of a Lonely Heart. E vabbè, è un po' poetica questa canzone, se vuoi, con le chitarre, i tamburi, però io devo parlare di tecnologia. Forza, se no che ci fai? Se no che ci faccio qua? Mica posso solo fare il DJ. Certo, quindi, allora, Google e GoPro, è interessante, veramente bello, perché... il gigante del search box, dei motori di ricerca, sta sperimentando una nuova soluzione per fare filmati in 3D sostanzialmente, quindi mondi virtuali anche, insieme a GoPro, con un sistema 16 telecamerine che ruotano praticamente e filmano la scena, poi Google la affida al suo algoritmo, alla sua tecnologia, e la rende disponibile per i suoi utenti su smartphone e altri device. È la battaglia per il video a 360 gradi, ovviamente, e sarà anche un pezzo di nuova televisione, un pezzo di nuovo racconto cinematografico. Già è così. Insomma, proviamolo. C'è una cosa divertente che fa Google, che si chiama Cardboard, che tu metti sul telefonino e provi un po' di realtà virtuale, eccetera. Carinissimo. C'è la fiera dei droni, sempre per restare in tecnologia, sì, la voglio segnalare perché ci sono delle storie aziendali meravigliose. C'è la fiera dei droni all'aeroporto dell'Urbe a Roma oggi, e vedrete che lì chi ci va troverà tantissime piccole aziende italiane che si danno da fare. Gente brava. Salamino. Una cosa è l'osteria numero 8, Poi, certo, c'è l'osteria numero 10, ma... E... Anche la numero 1000. Anche la numero 1000. Anche la numero 1000. Ma è la circolare delle circolari che fa circolare la circolazione. Oh, Ernesto Galli della Loggia, bravissimo come un vigile, ha beccato questa circolare e oggi sul Corriere della Sera si dice pronto a fornire in privato il nome e il cognome del dirigente scolastico, altrimenti detto preside, autore di una circolare, la numero 44, che vengo qui a leggervi. Circolare numero 44. Mi alzo in piedi. Oggetto, circolazione, circolari. Sono state presentate alcune rimostranze da parte di genitori dell'alberghiero e dei loro rappresentanza riguarda la mancata circolazione di alcune circolari. Si raccomanda di far circolare per le classi agli studenti tutte le circolari e di farle ricircolare per le classi uscite prima. Si raccomando di mantenere un flusso continuo di circolazione e di ricircolazione delle circolari anche con l'ausilio attivo e fattivo all'istituto alberghiero degli studenti di accoglienza turistica. Aspirina. Ebbene sì, ebbene sì. Questa è la Cancelletto Buona Scuola. E così parla un Cancelletto preside, oh, scusate, un Cancelletto dirigente scolastico. Urge, se non proprio il lanciafiamme, in classe, se non proprio il lanciafiamme, urge Petrolini. Vai! Sono un grazioso e bello, non sono un fortunello, sono un uomo di Tarzano, non sono un aeroplano, sono una sete terribile, non sono un dirigibile, sono un che bada al fulmine, non sono un parafulmine, sono un uomo senza lei. Roberto, Roberto da Roma, Roberto, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora abbiamo indovinato il nostro indovinello? Pare di sì. Sì, dica. Dovrebbe essere la sirena di Giuseppe Domati di Lampedusa. Giusto! Mamma mia, che giusto! La ciura che ripassa il greco per l'esame da professore universitario incontra Lighea. Giusto, Lighea è la sirena. Ma è un professore lei? Sì. Ah, ecco, naturalmente. Vabbè, no, no, no, però, non è, però non è quel preside, non dico. È il preside, non è quel preside. Grazie a Dio, no. Grazie a Dio, no. No, che professore di sentito, cosa? Mi scusi, ma sento malissimo. Professore di cosa? Di italiano e storia. Ma dove? Al liceo? All'Istituto Rossellini di Roma, al CineTV. Va bene, al CineTV. Bella, la, bene. Bella la circolare, no? Grazie. Bellissima, bellissima. Io l'avrei scritto anche peggio. Professor Simonelli, anche lei le scrive così le sue circolari? Io ho insegnato nella scuola media superiore. Scriveva circolari così. Mi dica del canone, dov'era il canone ieri sera? Il canone è un po' circolare, però. Dica. È un po' circolare perché Berlusconi intanto circola molto tra i vari talk show, no? Ma soprattutto mi sembra che siamo un po' appunto in una dimensione un po' burocratica, perché non si va al faccia a faccia, non si va allo scontro diretto, no. Non si va se non 4-3 così. Il fatto di sentire Renzi prima, Berlusconi dopo, Berlusconi no, prima Berlusconi dopo Renzi e poi Renzi, ma sì. Mai insieme. Non crea un po' di imbarazzo tra voi? A me crea un po' di imbarazzo. Noi siamo qui per imparare da lei, professore. Siamo in una situazione, come dire, un pochettino ipocrita, perché o queste sono elezioni regionali e allora vanno bene di faccia a faccia che fa Sky con i candidati alle regionali, oppure sono elezioni che hanno una valenza politica e allora ci dovrebbe essere un confronto tra i vertici giusto, politici. Giusto. Un confronto che sia un confronto. Bene, invece così mi sembra che siamo lì che non sappiamo. Vabbè, come fare. E qualcos'altro da segnalare ce l'ha? Come? Qualche cos'altro da segnalare? Qualche cos'altro da segnalare di bello? Beh, sì. In questi mesi c'è il Giro d'Italia. Ah, vabbè, naturalmente. E poi no, non possiamo dimenticare che stasera Romina e Albano all'Arena di Verona. Grandissimo. Io ho comprato i biglietti un anno fa. Ma dopo il giorno... Ci dovremmo buttare almeno un occhio, se non due o tre. Naturalmente. Qui... Grazie professore, dopo il giornale radio.